funzionali al dolore intestinale. Tecnologie performanti per una gamma completa di analisi. Risultate sicure e rapide in care poți avea încredere la prețuri oneste. Așa arată normalitatea la... De dolor pentru vitalitate. Ea este așa. Iar el nu? Ai auzit de multe ori în jurul tău. Dă-și tu ceva acolo. O atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu. Dacă ești schif. Zilo, buttaci una pasta, che pronta. Attenzione, canali dirici, se ascoltate l'isola della Sardegna, cambio. Caspita, chi sei? Avanti. Ah, buonasera. C'è il collega Di Paola. Gianni Lucchiuru. Ma sei in macchina? E che antenna hai messo a casa? Ai. Chi è? Avanti. Ai. Ai. Oi. E cosa ti fa di mai? Oi. Cucca, tu sì. Beh già, mi senti, sì. E se ci sto rispondendo, secondo te, lo senti? Pensavo non mi sentivi, sono comportabile. Ti sento. C'è un amico di Canica, quanto comunale, lo sì. Un po' basso, ti ascolto, dai, ti ascolto comunque. Buonasera, un piacere, Luca, questa parte. Un po' bassino, ti ascolto, avanti. Yeah, avanti già. Ehi, dai. Oh, yeah. C'ho un dolore alla gamba, guarda, da morire. Andiamo avanti. E che apparecchio stai usando come apparecchio radio? Attenzione, prato comunale Canica, che apparecchio stai usando? Ma un apparecchio radioamatoriale. Kappa. Ah, ci ho capito. Ma è strano, la radio è troppo bassa. Perché è così bassa la radio? Dovresti mettere qualche microfono amplificato. O forse ti devi avvicinare di più tu al microfono. Ma che cos'è, palmare o da tavolo? Magari con un cable del 140 sei uscito tre volte più forte. Ho capito. Ma quello che è uscita già questo apparecchio, quanti watt c'ha l'uscita? Attenzione quando attacchi l'amplificatore. Devi guardare sempre che entrata deve avere l'amplificatore. Se c'ha un'entrata di 10 watt non glielo puoi attaccare, se no te lo credo. Ma 100 watt ce n'è più di pulci. Io Santiago 5 e la radio è 4, dai, adesso è un po' più forte di prima, non so cosa hai fatto, ma sei leggermente più forte. Allora devi guardare l'ingresso del lineare da quanto è. Se ha un ingresso da 10 watt non li devi dare più di 10 watt all'apparato, perché sennò ti crepa tutto, ti fa partire tutto. Devi guardare sempre l'ingresso che ha l'amplificatore. Se l'amplificatore accetta l'ingresso di 100 watt non c'è problema. L'amplificatore è la marca, è quello che avevo io, sicuramente. Io l'ho venduto e te l'hanno venduto a te. Da 200 watt, non li da 300, ne da 200 al massimo, c'è scritto 300 ma non è vero, ne da 200 al massimo e l'entrata è massimo 10 watt quello lì, se li fai entrare più di 10 watt lo clicco. È nero, vero? E dove l'hai comprato? Ma l'hai preso nuovo? Ho capito, quello costa oltre i 200 euro, vero? Ok, vabbè. Chiedi a qualcuno che magari a tuo cugino che magari ne sa qualcosa in più quando lo devi piazzare e lo vedete insieme, perché vanno anche tra le stazionarie, quando attacchi l'amplificatore devi controllare bene le stazionarie prima che ti faccia partire tutto. Chiedi a tuo cugino che magari ne sa qualcosa in più, allora ti sì, io la conosco. L'antenna pigliati la LEM che ce l'ha Fusaro ed è buonissima, c'è lui, io questa che sta uscendo adesso è la LEM. La LEM c'ha anche l'entrata in acciaio inossidabile, tu immaginati che forza c'ha con l'antenna, con tutto quel vento che ha fatto non si è mossa di un millimetro. Ah, è preso l'altro, vabbè, comunque quella lì c'ha un problema, è il radiale che c'ha deboli, che praticamente ce l'aveva un amico e gli ha perso tutti i radiali col vento. Cadere radiali, ma comunque una buona antenna, tipo la Matova 5 così. Sì, ma quelli lì sono fatti dalla casa, non mettere altre cose, perché secondo cosa li vedi ti crea stazionali. No, l'interessante è che tu la vulcanizzi bene l'antenna, deve essere ben vulcanizzata e poi il nastro sopra il vulcanizzante, di modo che lo stringa bene. Io l'ho veduta a tuo cugino, non a te, tu te l'avevi completata a usare. E chissà come l'ha fatto l'impianto. L'impianto mi ha fatto la batteria e la massa presa da una vite della carrozzeria o qualcosa del genere. E bisogna vedere anche come ha fatto l'impianto. Quante ampere è la batteria? È bassa, bassa. Quando metti questi apparecchi qua, devi mettere almeno da 170, 100 ampere. È bassa, 50 ampere non ce la fa per quello, perché va sottoalimentata, capito? C'è qualche problema, devi andare da una letterata e farti dire che cosa è, che cosa può essere, perché secondo me è troppo bassa la batteria è stata messa in condizione che la macchina doveva andare così, poi se tu ci attacchi altra roba è normale che ci abbia assorbimento e quindi deve avere più ampere. Sì, ma non è meccanico, dall'elettrauto devi andare, quello è un problema di elettrauto, praticamente va sottoalimentata la macchina e non ce la fa. E quanti chilometri c'ha? Allora non è stata sfruttata. Cambia, te la compra, te la nuova. È un casino, un casino quando non va bene. Ma la mia non ha problemi, quando attacco l'apparato va benissimo, funziona benissimo, mi ascolta da tutte le parti con la terra che c'ho. Comunque se senti qualcuno, guarda che ce l'ho una Turbo 2001 mai usata, nuova di pacca, non l'ho mai piazzata, la sono per 50 euro e costa più di 60 euro adesso, sulle 70 le... sì la 2001 è quella che come quella che ho detto tu, io sono che questa è nuova di zecca, capito, non l'ho mai usata. E ancora col filo legato e tutto, no? Non ho mai messo le PL, nulla, è tutta quanta la parte. Vabbè. E quando ti attrici un po', quell'arrigo c'è il problema che entra acqua, quando c'è umidità ti dà stazionare. Ma perché no, prima era pieno, adesso non c'è più nessuno, uno è morto. Gambero rosso è morto, quello lì era un bel simpatico, stava sempre ridendo. Lui non era italiano, ma abitava anche da tanti anni. E anche non c'era anche l'unità cinofila, c'era un sacco, facevano un sacco di operazioni. E poi c'era andato tutto a casino, con questo cellulare ha rovinato tutto internet, il cellulare. E guarda che la frequenza è in piedi ancora, perché prima era ferma, è stata ferma 10 anni, non entrava più nessuno, poi ci siamo trovati 3-4 vecchi cibi che ho preso io e abbiamo ricominciato a ripristinarla, c'era riempita, c'era un po' di gente, poi di colpo di nuovo è ricaduta. Qua su 10, ho capito. Sì, Daniele dai paesi stava parlando, non è di Sassari, non è la Sassari. Esatto, no, non è di Iti, lui è di Sassari, però abita lì adesso. Lui è di Sassari. Io sono su 10 e sono su 23, dove c'è gente va. Ma solitamente io frequentavo su 10, sono sempre frequentato su 10. Ma tu anche non hai sentito parlare? Ce ne erano tanti Alghero, molti sono morti, Pierangelo è morto quello Gambero, un po' sono morti e un po' non ci sono entrato più. Poi ce n'era uno che c'era fatto una stazione di uso, poi si è rivenduto tutto, quando hanno fatto il tetto della casa, hanno fatto il cappotto alla sua casa e hanno dovuto fare il tetto, hanno dovuto tenere l'antenna e poi non li ha più ripiazzati. È meglio così, dai. Anche a Porto Torre se c'era molta gente lì, era pieno, specialmente al villaggio Satellite era tutto pieno d'antenne. Tutto a Porto Torre, ma il villaggio Satellite in modo particolare era pieno. Ciao, vicino a me. Corbiera di San Benito è una zona, come può essere Rizzedo, come può essere Grazia Dolce, ecco, quindi è così, una zona di Portantonio. Ah. Avanti, no? Eh beh già, ma che stai parlando, non si fa nessuno io. Con un ragazzo che abita a Corte Comunale a Carica. A Carica? Non lo sento per niente, sanno che non lo sento, perché è quasi per dove arrivare. Ai, c'è come, inteso vai, che è quella che non ci ha di male. Oh, sono uscite mille di macchie, non c'è sera che mi sono sì. Ma lei, sta che ti riempiacca nella vasca da un poco. Stasera che ho visto sì, ma i gamberi non l'ha visto ancora, I gamberi stamattina l'ho visto, come acceso, lei da sopra, attaccata alla pianta, come acceso sì, se n'è andato sotto la roccia. Ma era quello blu quello già? Blu era. Beh, tu sei fortunato, a me le gambe ce li hai, io non l'ho più visto, da quando la giubbuzzi non l'ho più visto, se la ne mangia dei pesci. Fortunato, a proposito, i pesci, uno se la ne mangia dei pesci, non so cosa se l'ha mangiato però. Ma quale pesce? I quei guppi, piccolini. Ma quelli che c'ha tu? Ah, è cingommina. Ciao Roma, sentite, no, quelli miei. Il pesce grande si mangia sempre il piccolo. No, i gupi ce l'hanno come natura a mangiarsi, ma se c'è qualche altro pesce in mezzo, magari sono i neo. I neo sono più voraci. Se tu li guardi nel muso si vede, pare nei binari. Sì, allora sarei meglio che si l'ha mangiato. Vedi un pezzo di capo, vedi. Oh, voraccio, l'ho decapitato. Avanti, allora, Carica, come ti chiamiamo come nominativo? Troppo lungo. Troppo lungo? A te non ci sente, Barone. Sì, adesso siamo schermati tutti e due. Vabbè, dai, vi saluto che vado a guardarmi Bonulis, che sta iniziando. Ciao Gianni, ciao Luca, e salutami l'amico di Carica. Capo, dai, Marco ti saluta l'amico di Santa Maria di Pisa. Manuela Cingomino. Negativo, non ti sente. Lui gli sta facendo con l'antenna di macchina. Capo, dai, ti saluta Manuela, l'amico di Carica. Avanti, Luca. Non entra mai, entra. E si là. Marco, tu non hai problemi di andare a prendere le uova, vai al Porto Comunale direttamente e ce le affreschi. No, non ti ascolto più, c'è splatter, ci sono splatter da qualche parte, non lo so se sono americani o cosa so, ci stanno coprendo. Attention my friend, Italy promotion linea. Il fatto che li ascoltiamo uno e loro non ci ascoltano perché usano dei lineari da 1000 a 2000 watt, per tutto si fanno sentire. Arrivano anche loro per un V5. Ascolta, l'RM Italy, quanto hai pagato? Marco, ho detto il lineare, l'MR Italy, quanto l'hai pagato? Io ho venduto il mio da poco. Ho venduto il mio, ma ho venduto una cazzata. Volevo fare i furi che non lo stavo più usato ed era nuovo. Comunque più di 200 non è dato, sono male quelli che scrivono 300 quasi non li dà. Io l'ho provato al massimo a manetta e non li dà, ne dà 200 al massimo. Io l'ho collegato al gas, però lo potevo collegare in tutte le radio perché io avevo lo spezzone, bastava che lo spostavo dalla radio in radio, c'era uno spezzone attaccato al lineare, spostavo lo spezzone e l'attaccavo nella radio che volevo. Esatto. No, io i watt ce li ho regolabili, le classi ce li ho regolabili, capito? La mettevo a 5 watt, l'entrata, di modo che non distorca, perché se lo metteva a 10 watt distorceva, eppure l'entrata ce l'aveva da 10 watt, però distorceva la voce se lo metteva a 10 watt, invece se lo metteva a 5 mi sentivano pulito, un po' più basso di segnale ma pulito. Allora, quella radio lì si può regolare, sicuramente si può regolare il watt, devi abbassare il watt, devi avere un watt metro a fianco, di modo che tu vedi quanti volte sta andando, e lo abbassi, lo metti a 5, 5, sì, e si a po'. Sì, ma puoi abbassarne ancora i vatti, volendo. Ma i vatti si sono abbassati di brutto, il segnale si è abbassato molto. Sì, il 3 di segnale invece che il 5, dai. E metti come era prima, perché era più forte anche la radio. Prova in FM a vedere come va. Ma ragazzacci. Ui, e me Marco, come va? Buona Buonasera a tutta la ruota, non so che ci sia, sono arrivato adesso, ero a fare una commissione fuori, c'era anche un po' di freschino. E già, come va? Come tutti i giorni, normale amministrazione. L'amico da dove modula? Marcaring, approccio comunale. Ah, ci siamo già sentiti allora. Marco da Sassari, dai, io lo rilancio, non mi ricordo il nome, avanti? Sì, sì, confermo. Segnale quasi 7, quindi dai, tutto va bene. Stavate parlando di radio già, ogni tanto ne sfornano una, diciamo, nuova, tra virgolette, di quelle, vabbè, moderne. Addirittura hanno fatto il CRT 7009, che è quello che ho io, poi hanno fatto Turbo, adesso è uscita la nuova versione che riceve anche in VHF, cioè ti fa da baracchino in ricezione e trasmissione, tutti AM, FM, SB, eccetera, e in più riceve tutta la VHF da 136 a 174, tipo gli apparecchi americani, che hanno la banda VX, cioè sarebbe la banda, il meteo della banda marina, ecco, però lì fa tutta la VHF. Ma solo in ascolto la VHF? Sì, solo in ascolto, però non è male. Molti americani lo usavano, se loro hanno il tornado, quei bollettini meteo particolari, da loro diciamo il servizio è molto più attivo anche. Qua molti, chi non ha la barca non saprà nemmeno che c'è il canale meteo marino, capito? KK, sì, io l'ascoltavo, il meteo marino, lo dice male diverse lingue. Sì, escono questi apparecchi nuovi, però sono fatti diversamente, perché lo sai meglio di me, tu, no? Stavo parlando proprio di quello con Antonio Bobo, dice, è uscito il nuovo A48, bello, dice, l'hanno fatto bello veramente, sì, ma è internamente, ha sempre quei microcircuiti, non è come quelli che c'erano prima. Io avevo preso quello old, quello che è già modificato dalla fabbrica, che c'ha Echo Colt, c'ha tutto quanto, te lo ricordi? È durato 4-5 giorni, poi si aspetta, non avrà più funzionato, già di buttare a rovondezzare. Peccato già. Sì, adesso i baracchini funzionano allo stesso modo, diciamo, però dentro li apri e sono dei cellulari praticamente. Vai, l'amico di Caniga, vado a bere io un attimo. Come non è molto potente. Il CRT va bene come apparecchio. Poi Marco li ha avuti tutti i CRT, chiedi la lui. C'è un menu che da, diciamo, da impostare. Se tu non imposti le cose, puoi impostare il volume della radio, puoi impostare tutto qua. E quelli lì, nei CRT. Quando entra Marco, chiedilo, che lui ne ha avuto di questi CRT. Ditemi tutto. Dice che non riesce a entrare con questo CRT, che deve attaccare lo IAIS, se no non lo ascolta. Allora, il 6009, che è uguale a quello che ho io poi, al 55, non so quanti 5 abbia, ha 12 watt AM reali, in FM ne ha 30 o 40 e lo stesso in banda laterale. Diciamo che 12 AM, da dove sei tu, magari qualcuno al Sassari ha difficoltà a sentirti, tant'è che adesso tu hai un po' più watt, diciamo, no? Sicuramente se li abbassi arrivi più basso anche qua. Io ti copierei comunque, presumo, se vuoi fare la prova, attaccato, e vediamo un po' la differenza di segnale. E poi, vabbè, si può migliorare andando in SSB volendo, ah. Sa cos'è, poi non entra, chi ha baracchini magari MFM non entra. Oi oia. Veramente, ma veramente basso. Santiago 4, il QRM 3, tu arrivi 4, però anzi ti dirò che è stranamente basso. Perché sì, potrebbe scendere di un Santiago passando, non so quanti watt tu abbia, ma sì, è strana la cosa. Beh, da 5 a 40 sì, la differenza è notevole, notevole. Scendi più di 2 Santiago qua, quindi da 4 a quasi 7 modulato, dai. E qua è critica la cosa, è vero, è vero. Da Gianni come invece? Io mi segnale quando ti arrivo, Marco. Qua arrivi, tu arrivi 5, poi appena abbiamo una lineetta più avanti del 5, ma non siamo così. Comunque già sei comprensibile. Gianni, io non sono liscio, eh. Io lo so, non ne sono accorto. Tu sei... Ma mi pare 747 me lo riprendo, perché non me lo ha parecchietto. Non facciamo distorcere le nuove. Sì, che poi ho un RM203, 747 Midland, non so nemmeno se si trovi più già, era uscito dal catalogo, proprio era fuori catalogo, non c'era più, ma ti prendi un RM KL203 a 4 finali, in normali condizioni, cioè senza stazionarie non dovrebbe saturare, è questo qui, cioè il mic anche a metà, per quello temo che saturi, ma credo che non saturi. No, non satura, esce benissimo. Ascolta, quanti watt dà questo? Allora, con 4 watt d'ingresso ne dà 60, 60, se ne dai 5 arrivi a 70 e più, però io consiglio di non superare i 4 per avere modulazione pulita, più ne dai più inizia a saturare. 4, massimo 5 modulati, dai. Ma MOSFET va qui. Naturale. Ah, 4 MOSFET. C'è un MOSFET che lo dovrebbe saturare, che strano. Comunque dipende sempre dall'entrata, le lo stavo dicendo a Marco, perché si è preso un MR Italy da 300 watt come ce l'avevo io. Lo vuole attaccare allo Yaesu che c'è già con 100 watt. Spiega, glielo io gli ho spiegato che l'entrata deve essere sempre più bassa, deve abbassare i watt, se no prima di... No, infatti, se metti un lineare per la 27, tipo, non dargli più di 4-5 watt in ingresso, in AMFM. In banda laterale puoi arrivare anche a 12 watt. 12 watt pieni, anche 15. Tanto il segnale non è continuo, no, i watt non sono continui. No, se metti troppi watt spacchi. Un giorno già ho rischiato di spaccare tutto io qua. Per sbaglio c'avevo una delle varie radio che in FM con una ventina di watt. Me ne sono accorto meno male dopo un secondo e non è successo niente. Tu hai rischiato, io alla 40 l'ho bruciato così. L'ho proprio bruciato. Comunque sì Gianno, io non capivo come mai il tuo, che io conosco bene, quello che avevi, quello non, l'ha provato quel Luna Rossa, Francesco Luna Rossa, quello che entrava in propagazione con noi, e non, di norma regola non satura se tu lo piloti con i suoi 4 watt, 5 modulati per dire. E poi lui l'ha fatta la prova, 300 watt te li sogni, mi pare che in AM ne dia 200 spiccioli, ma sai cosa vuol dire con l'alimentazione ottimizzata? Cioè lui l'ha alimentato con due alimentatori da non so quanti watt, quanti ampere, gli ha migliorato la circuitazione, l'ha tarato ad hoc dentro, e più di forse 200, 220 watt, 230 non ne dava in AM. In banda laterale è un altro conto, in banda laterale ne dà molti di più, se ne dà il doppio in ingresso, quindi anziché 4 watt ne dai 10, 12, te ne dà molti di più. Adesso non, la prova non l'ha fatta solo in AM. E dicevo, quello lì, ti spiego, quello che avevi tu ha 9 MOSFET identici a quelli dell'RM203. Perché 9? Uno è il pilota e gli altri sono gli 8 MOSFET di potenza e sono gli stessi identici che monta questo qua che ho io. Allora io la cazzata che ho fatto è quando io l'ho ordinato, mi ha detto ne ho uno che ha l'entrata da 10 watt e uno che ha l'entrata da 20 watt. Poi lui, siccome io l'apparecchio mio non arrivava più di 10 watt, ho detto mandamelo da 10. E invece ho fatto male, se io l'avessi ordinato quello da 20 avrei potuto pilotarlo tranquillamente, capito? Ma tant'è che avevo capito che tu avevi quello con l'ingresso più grande, però non si spiega già, o è uscito difettato di fabbrica, e se no non c'è spiegazione. Già, rilancia un attimino l'amico di Canica che mi assento un attimo io. E poi c'aveva anche un difetto, che tu quando mettevi l'amplificatore di radio, invece che amplificare si abbassava la radio. Avanti, poi mi dirai quando lo attacchi, Marco, c'è anche l'amplificatore, il preamplificatore per ricevere i segnali più bassi. Lo puoi attaccare, c'è un tasto, lo puoi attaccare, c'è sito preampli e preampli. E come dire, preamplificatore di radio, praticamente tu dovresti sentire la radio più forte, ti aumenta il volume della radio, però aumenta anche i rumori, se ci sono rumori sottofono te li aumenta. A me invece che aumentarmi, quindi diminuiva. Perché i watt dopo te li dà l'amplificatore, non c'è bisogno di avere quelli della radio, quelli della radio sono solo i watt pilota, diciamo, per pilotare l'amplificatore. Ma una volta che tu abbassi l'amplificatore ci dà 200 watt, che bisogno ne ha dei 100 watt della radio. Sono altri amplificatori, sono fatti per i VHF, quindi per gli apparecchi radioamatoriali. Hanno entrate più grosse, capito? Cioè già l'amplificatore ha un'entrata di 200 watt, quindi tu lo puoi attaccare anche all'apparecchio che esce con 200 watt e va tranquillamente. Ma cosa dire mai? Quindi li usi quando devi parlare da nazione a nazione. Cosa te ne fai per parlare qua di quegli apparecchi lì? Non te ne fai proprio nulla, disturbi solo e basta. Ascolta, ma quando ti hanno mandato l'amplificatore, una curiosità, ti hanno dato anche quella borsettiera che si mette dietro dove si attaccano i fili? Perché quella io l'ho ordinata a parte, lo sai che non me l'avevo mandato una camera, l'ho dovuto ordinare da parte. L'attacco è verde? Quindi guarda, ti hanno mandato con l'attacco. Però nero. Strano, io quella serie lì l'ho sempre vista con quell'attacco verde, quello che ti ho ordinato a parte che secondo me il venditore faceva la furbata di toglierli dalla scatola e venderli separatamente. Non avevo mai visto così. Comunque il venditore c'è sempre, si chiama Radio Hotel su eBay, ES Radio Hotel. Per esempio questo 203 prima costava 40 euro più 6 euro di spedizione, quant'era? 5,90, 6,90. Adesso col passare degli anni gira gira lo paghi 80 euro, lo paghi quasi quanto pagavi il 747 alla GBC. E vabbè, però sono passati già anche, io sono entrato nel 2010, sono rientrato in radio e ne sono passati di anni a voglia. Ma la GBC esiste ancora? Sì, guarda, se tu provi a scavare sotto le montagne di Scatoloni forse riesci a trovare la GBC. No, perché so che l'ha presa Fusaro la GBC, lo sai. Oh, no, non ne sapevo niente. Adesso bisogna un po' ripulire tutto lì, perché era veramente alla frutta, No, no, aspetta, Fusaro ha preso tutta la roba della GBC, la Midland, eccetera, eccetera, fa arrivare anche la 48, eccetera. Non è che ha preso il negozio è sempre quello di Fusaro. Ah, ecco, non ha preso il negozio fisico, ok. Eia. Vabbè che sai, online hai più scelta, vai in un negozio, cioè ce ne sono tanti negozi, basta mettere su Google l'articolo che ti interessa e ordini. Infatti non ha senso nemmeno il negozio al dettaglio per certi articoli, dai. Vabbè, ma se te ti serve in fretta, vabbè, te lo prendi, il pezzo ce l'hai subito. Solo che alla GBC andava a prendere un pezzo, dice, ma arriva la prossima settimana, appena la prossima settimana e arriva per due settimane. Un giorno mi sono incazzato e ho detto, ma sono un mese qua che sto tornando con questa roba. E mi ha detto, cazzo, ma non posso ordinare, sono per te. Devo... Allora, non mi dire che arriva la prossima settimana, dimmi, se tu mi devo pagare le spedizioni, te le pago. Però, cazzo, non mi dire, arriva la prossima settimana e poi non arriva mai. Cioè, non c'è serietà, è tutto dato un buccio male. No, ma infatti, vabbè, non... quelle sono cose personali sue, però a un certo punto non c'è più il tanto, dai. Beh, Marco, riprendi. No, è che deve arrivare a Roma e non c'è tempo proprio di sistemarla, perché prima il ragazzo lo aiutava, adesso non ce l'ha più e si trova tutta la roba accumulata, ci sono pochi offerte e cose che non apre nemmeno, non le fa nemmeno perché non ce l'ha fa. A quanto ho capito aveva anche qualche problema di salute, quindi capisco. Allora, l'RM Italy c'ha un attacco che praticamente non te lo mandano solitamente, te lo vendono a parte, però a me quando io l'ho ordinato perché l'ho preso nuovo, mi è arrivato senza l'attacco e ho dovuto ordinare l'attacco a parte, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, però ho dovuto ordinare l'attacco per mettere i fili da parte. C'è, se si può infilare lo stesso il filo, perché per provarlo l'ho usato così, col filo infilato senza avvitare, però è un rischio, capito? Se si muove il filo, tocca due fili e salta tutto. C'è l'attacco a parte. Infatti a me me l'aveva detto Massimiliano, ho detto guarda che se non è arrivato con l'attacco vero, perché a me è arrivato senza attacco. Però devi ordinare. E così è stato. Lo conosco molto bene. Gianni, ti ricorda niente? Che tu hai fatto? Mi aveva bruciato la garanzia dell'Albrecht. Si è tenuto l'apparato 8 mesi e non ha fatto niente. Pazienza, depennato, chiuso, messa la croce su quel negozio. Purtroppo l'ha fatto a tante persone. Sì, a me la garanzia. Aspetta, ripeti Marco che avete parlato in due. Io non me l'ho mandato per la garanzia dell'apparato che ho comprato. Ah, l'hai comprato là, eh. No, ti spiego Marco, io avevo comprato un baracchino, un Albrecht 5008, e lui sempre gentilissimo, il venditore, quando ho comprato era sempre gentile, però quando ho avuto un minimo problema, l'ho spedito, ha detto che avrebbe spedito alla CTE Albrecht, no, se ne occupa la CTE Midland Aran, come la vogliamo chiamare. E io ogni tanto chiamavo, ogni mese chiamavo, e sai, lì sono lenti, alla Midland sono molto lenti, qua là, alla fine faccio un giro di mail e si è scoperto che l'apparato non è mai stato spedito alla Midland, né a nome mio, né a nome del rivenditore, né a nome della ditta sua, niente. Se l'è tenuto 8 mesi non ha fatto niente. Sapete cos'era poi il problema? L'ha risolto un CB nonché radiatore di Alghero. Io gli ho regalato l'apparato, ho detto perché questo apparato non lo voglio più vedere. Lui ce l'aveva uguale, era semplicemente un trimmer, il trimmer della modulazione M che scaldando andava in... non della modulazione, il trimmer della potenza dei watt, scaldando si aveva come un'interruzione, un calo delle... cambiava la resistenza e non usciva di watt quasi. L'ha cambiato un trimmer, 5 euro per dire, e l'ha messo a posto. E quindi io dal giorno, soprattutto non tanto per la negata assistenza, quanto per la balla che mi ha raccontato, capito? Poteva dire non ho voglia di farlo, spediscilo direttamente tu alla Midland CTE, l'avrei fatto io, non c'era problema, purtroppo. E questa è una cosa che ha fatto della mancata assistenza a varie persone, purtroppo io lì non acquisterò più niente. No, ma magari diciamo truffallino no, però magari per i baracchini non ha alcun interesse a fare assistenza, però è giusto che lo dica, non ho interesse a fare assistenza ai baracchini, speditelo già alla Midland, quello che è, alla CRT, e bastava una comunicazione chiara, onesta, e io non avrei avuto, come l'ho spedito a lui, lo spedivo alla Midland, avrei fatto prima, è tutto lì. E poi già, se ti ricordi, si era negato, c'era un apparato in vendita e sul negozio, sempre in vendita per vari mesi, a me ha detto che era terminato dopo questa storia, perché l'ha saputo ovviamente che io mi ero lamentato. Sì, cammino di solesto, guarda adesso il segnale Marco di carica, vediamo un po' se è aumentato. Marco è attaccato, capito, per quello c'è oltre. Io non sono attaccato, succedo con l'apparato normale ed è quello che c'è adesso con 100 watt, capito? Qua sei 9.20 già, sei passato tipo da 9.15 a 9.20. Cavalava. Però come lo so pavimentato, si abbassa la luce, non capisco perché. Ma l'ha sempre fatto? No. Beh, se c'è una variazione nel funzionamento, allora l'alimentatore bisogna verificare se riesce a dare le ampere che deve dare. E noi da 50 questo qui, di quegli alimentatori di computer. Ah, il famoso alimentatore di eBay che hanno tutti, credo che non ci sia un cibo radiatore che non ce l'abbia. Io l'ho preso da 80 ampere, poi bisogna vedere se sono veri. Spiega un po' qua. Sì, poi quello già viene venduto come alimentatore per strisce LED, c'è un alimentatore switching per strisce LED, ecco. Guarda adesso come va, come segnale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E qua non cambia già, la modulazione è sparatissima, è allucinante, potrebbe essere tipo questa a me, mettendolo a 10, non lo so se rende. Oh, ma stasera poi non è entrato nessun altro, no? Sì, è entrato Luca e sono andati diversi, aspetta. Oh Marco, ti volevo dire, quello è un bel apparato, è completo, io ho avuto quello veicolare della generazione precedente, l'857, faceva un po' tutto, ma alla fine ho lasciato perdere tutto. L'idea era di provare a dare l'esame per prendere la patente, poi c'è stato un calo nell'interesse, è venuto tutto di quella roba amatoriale, però ero già attrezzato, diciamo. Marco, controlla se fa qualche rumore tipo scarica, roba del genere, di sottoalimentazione. No, apparentemente no. E vabbè, allora è un po' sottoalimentato, bisogna che lo attacchi all'altro alimentatore, buonanotte, dai. No, comunque non hai alcun problema di sorta già, non cambiarlo se non è necessario, vabbè, copiato Marco. Ehi, sai cos'è già? La tua modulazione è troppo tirata, troppo. Io vabbè, sto parlando piano, c'ho anche un po' di mal di gola, ho preso freddo. Guarda adesso Marco che ha abbassato il microfono a vedere come va. E allora ha troppo alto il microfono, là. Questi microfoni qui Marco sono una sciccheria. Peccato che mi si era rotto quello che mantiene quel pilino che mantiene la vite dove si incassa l'apportante, il tasso dell'apportante, ma già l'ho ricostruito con una vite io. Ma il KPO? Sì, appena comprato, mi ho messo l'ho svitato per metterci la batteria e sono andato a vitarlo e praticamente si è troncato quel gambo che c'è in plastica là. Lo sai cosa succede? Quando modulo si abbassa la luce, invece quando praticamente non modulo è bella piena la luce, quando sono in modulazione si abbassa. Via. Vabbè, dipende, magari è cambiata un po' la tensione che arriva alla lampadina, non saprei già, però problemi non ce ne sono, io ti sento bene. Va bene. Tu Marco, sei già radioamatore o vuoi tentare l'esame? Perché ci sono tante facilitazioni adesso, una volta era più difficile, c'era il cibo doppio e tante altre cose, dai. Sì, peraltro, forse Gianni lo sa già, hanno introdotto questa patente semplificata, ulteriormente semplificata, che ti permette di usare solo, mi pare, la banda VHF. L'HF no, però è un contentino, dai, così almeno uno si porta il bau appresso senza rischiare 2.000 euro di multa. Ho Gianni e io non ho di quei problemi, non ne ho più di niente. Io ho solo gli apparati CB e basta, non c'ho altro, non c'ho amplificatori, non c'ho più nulla, ho dato tutto. Ma non fai nemmeno più ascolto, quindi non hai nemmeno un ricevitorino per VU, no? No, negativo. No, io magari, forse in HF mi spallo di più, non so. Mi piacciono le comunicazioni locali, radioamatoriali, quando così discutono tipo baracchino, così. Non tanto i DX, perché sempre 5-9, vai, un altro sotto l'altro, 5-9, vai, un altro ancora, 5... Quando fanno le, come si chiamano? I contest, tutti uguali alla fine. Mi piacciono più le chiacchierate, le chiacchierate da salotto, ecco, da ascoltare. Guarda, io adesso sono con 10 watt, come mi ascolti? Adesso non si abbassa. Sì, ma la modulazione è esagerata già, è sparatissima. È come se io stessi sparando così attaccato al mic. Se ce la metà, cazzo, guarda così, ce l'ho quasi al minimo. Ma forse ti eri avvicinato, non te ne sei reso conto, là, capita anche a me. Ah, e allora è quello. Perché ero abituato ai microfoni normali, prima li avvicinavo, quindi non ho mai avuto normali. Sì, guarda, già, è già troppo che stia usando un amplificato. Più che altro lo faccio per parlare a voce bassa, perché tanto quando mi prende il freddo alla gola e... già la senti che è un po' vibrata la voce, no? Poi questo KPO è più limpido, capito? Non è male. Questo però in banda laterale per i DX non l'ho mai sfruttato quanto avrei voluto. Anzi, credo di aver usato solo una volta nei DX. Eppure sai che molti lo comprano per quello, perché con gli apparati tipo il 6009, il 7009, un po' tutti, ti migliora molto la timbrica rispetto al mic di serie di tutti questi apparati CB moderni multicanali. Marco, se regolo un secondo le stazionali, me le controllo a vedere come sono con questo apparato, perché questo c'è più forte, magari non è regolare. Così me ne saranno vinto. Di fatto di stazionarie. No, di stazionarie 1-1. No, era una battuta, ci mancherebbe. Ok. Aspetta un secondo. Ora, perché vinci? Scusa un attimo. Ecco, adesso ho sentito appena appena di innesco, sai quello che fa? Ora. Perché non lo sta sottoalimentando, quando fa questo rumore sottoalimentato. Non c'è nulla. Ma è stato sporadico già, non c'era. È come se toccando qualcosa, forse è toccato qualche massa, lo chassis del rosmetro, non lo so, non l'ha fatto più. Guarda ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, ma non mi sto dando i watt che mi deve dare, mi capisci? Ah, vabbè, se ti accorgi che non dai watt che deve, sì, magari è un po' sottalimentato. Sì, sai cos'è? Quegli alimentatori già, li hanno fatti vedere dentro, cioè, sono due componenti in croce, e poi...